Essere e benessere di Nicoletta Carbone. Professore, ma voi quanto pesate? 95 kg. Ehi! E tu? Anch'io sono un disastro, 51 e mezzo. Vabbè, ci vuole un po' di pazienza, dai. Professore, ma voi fate qualche dieta? Magari. Ma cosa intendi tu per dieta? La dieta del fantino, del pilota, messeghesh, castadallo, watch. E Bacco, ma sei un vero e proprio dietologo. Quasi, quasi. E tu che dieta fai? Nessuna dieta, perché a casa mia si mangia normale. Cioè? Pasta e fagioli, brodo di polipo, polipetti con olive e chiapparielli, zuppa di carne cotta, ragù, vermicelli alle olio, carne di porco, soffitto, piselli, uova, polpette, salsicce, pizze, pizzette, cachi, pere, ciliegie, dattili e meloni. Mi fai venire una fame. E per dolci, babà, sciuscia, cioccolate a crema, pastiera, mille foglie, zippole di San Giuseppe, cannella alla siciliana, deliziose sfogliatelle, struffoli al cocco. Che fame, buongiorno da Nicoletta, accomodatevi amici, oggi si mangia con me. Un invito speciale a chi sta seguendo una dieta o sta accarezzando l'idea. Non voglio tentarvi né dissuadervi dai vostri buoni propositi, ma cercare di capire quale strada avete deciso di intraprendere per perdere peso. A. Vi buttate sulle proteine, carne e pesce a go-go. B. Riducete all'osso i grassi. Insalate scondite, niente burro, formaggi, intingoli o fritture. C. Preferite puntare su pasta e verdura, elaborando una vostra personale versione della più conosciuta dieta mediterranea. A, B, C. 800 24 00 24. Ma naturalmente mi piacerebbe sapere se vi siete dati un obiettivo, in altre parole, quanti chili vi augurate di perdere, e un tempo. 15 giorni? Un mese? Due mesi? Oppure siete possibilisti? In linea con noi abbiamo il dottor Filippo Ongaro. Buongiorno dottor Ongaro, bentornato. Buongiorno Nicoletta, buongiorno a tutti. E la nostra dottoressa Reverso. Buongiorno anche a lei, i nostri due esperti che promettono di farci dimagrire mangiando. Il dottor Ongaro lo fa in un libro, Mangia che dimagrisci, e la dottoressa Reverso, mettendoci ai fornelli con le sue preziose ricette che potete trovare sul sito di Radio 24. Dottor Ongaro, ABC, quale delle tre versioni ha più probabilità di successo? È difficile dare una risposta qui, perché dal mio punto di vista a lungo termine sono destinate ad uno scarso successo tutte e tre le strategie. In realtà è la sintesi probabilmente tra le tre la cosa più intelligente da fare, con le variazioni di cui abbiamo parlato spesso, ma sono curioso di sentire che cosa ci diranno gli ascoltatori oggi sulle loro esperienze con questo tipo di scelte, no, che si fanno, perché in genere l'idea di dieta ci porta a fare delle scelte che sono spesso un po' estreme. Quindi ricordiamo, ci sono delle scelte estreme, delle scelte che noi mettiamo così in corso quando vogliamo buttare giù qualche chilo. Noi vi abbiamo suggerito tre ipotesi, le ricordiamo, l'abbiamo detto, vi buttate sulle proteine, dottor Ongaro? Sì, questa è un'ipotesi molto percorsa in questo periodo, non si parla di diete iperproteiche in cui, per dirla tutta, ci sono ovviamente le verdure rimangono, ma c'è un aumento netto dell'introito delle proteine a discapito dei carboidrati e dei cereali. Riducete all'osso i grassi, perché il ragionamento è molto semplice, si fa. Si dice, i grassi forniscono molte calorie, 9 calorie mi sembra per grammo, cosa faccio? Riduco e riduco anche gli alimenti in cui sono presenti forti percentuali di grassi. Dottor Ongaro. Mamma mia, non ti serviamo più Nicoletta, perché ormai sei assolutamente perfetta nella descrizione, cioè qui il discorso è: vado a ridurre molto le calorie, prendo quella componente della dieta che ha più calorie, riduco ovviamente quella, quindi la classica dieta ipolipidica che da tanti anni insomma si usa, si propone, però spesso va a discapito della qualità dei grassi, perché in realtà ci sono dei grassi molto utili, di cui abbiamo parlato spesso in Mangia con me, che attivano il nostro metabolismo. E di questi grassi molto utili che attivano il nostro metabolismo, vi chiedo, li riconoscete, li conoscete bene, volete parlarne con noi? 800 24 00 24. Dottoressa Reverso, c'è chi invece dice, punto sulla pasta e sulle verdure, riduco un po' il resto, mi faccio un po' una versione mia della dieta mediterranea, può essere una buona idea? può essere una buona idea, magari potremmo usare della buona pasta integrale, della pasta integrale di farro, che è quella più ricca di fibre. Se usiamo delle verdure, saltiamole in padella con pochissimo olio, pochissimo cosa significa? 2 cucchiaini a testa, facciamo una cottura molto leggera, molto veloce, usiamo le verdure croccanti, uniamo subito magari dei pomodorini, tra poco arriva la stagione, così ammorbidiscono le verdure, ci aiutano a ridurre il condimento e abbondiamo con le spezie. Certo, questi sono erbe aromatiche anche. Questi sono dei consigli per aggiungere sapore, ma dottor Ungaro? No, certo, diciamo che se noi facessimo questo con i cereali integrali sarebbe anche accettabile, però come ho detto tante volte bisogna fare un po' di attenzione, perché uno dei problemi della nostra alimentazione, una delle cause del fatto che stiamo diventando tutti un pochettino più grassi è in realtà che mangiamo un po' troppi cereali, quindi anche qua la dieta mediterranea sì, però quella giusta, non la dieta mediterranea intesa come pasta, pizza, pane, eccetera. Volevo leggervi un messaggio che mi manda Paolo, basta mangiare solo frutta e verdura cruda, con tutti i grassi naturali che vuoi, guarda i gorilli, ma no, le diete mai. 349-238-6666, oggi vogliamo parlare anche di diete estreme. Tutti noi abbiamo, per una ragione diversa, magari iniziato a fare una dieta, e io vi chiedo quale dieta, ma ci sono dei momenti in cui ci viene un po' lo sgribizzo, il pallino di dimagrire rapidamente, e allora abbiamo un ventaglio molto colorato anche di proposte, la dieta dei 2 giorni, quella di 1 giorno, quella dei 3 giorni, quella del fantino, quella del voi l'avete fatta, c'è gente anche che decide di saltare a pie pari, di digiunare, diete estreme. A voi com'è andata? 800 24 00 24. Fantozzi, che aveva promesso alla Pina di perdere con lo sci almeno 5 kg, ecco, decise per il dimagrimento alternativo. Si fece ricoverare nella modernissima clinica locale per seguire la famosa dieta del professor Birkenmeier. Benvenuto nella sua nuova dimora. Grazie, professor Birken. Birkenmeier. Mi scusi, professor Birkenmeier, dato che non ho ancora fatto colazione, in cosa consiste la dieta qui? Niente. 20 giorni di digiuno assoluto. Niente mangiare, niente bere. Ma come? Niente mangiare? Beh, confessiamolo, c'è un po' di fantozzi in ciascuno di noi, chi non si è lasciato tentare da una dieta estrema, dura, punitiva, ma rapida, per rientrare in un vestito, per buttare giù i chili accumulati velocemente, magari in una vacanza. Aspettiamo le vostre esperienze estreme al nostro numero verde. E intanto, dottor Ungaro, è svenuto, vero lei? Mi ricordo molto bene questo film di qualche anno fa, in cui Fantozzi appunto arriva in questa clinica, dove l'intervento consiste nel non mangiare per nulla. Beh, al di là della sofferenza totale di un approccio del genere, dell'eliminazione di qualsiasi forma di piacere, diciamo che poi il problema fondamentale a lungo termine è che chi è che resiste ad un approccio del genere, cioè questi sono approcci che spesso portano al risultato opposto nel tempo, cioè abbiamo questo effetto rebound, questo effetto yo-yo, per cui siccome ho sacrificato tantissimo me stesso per un periodo limitato, l'intensità dell'intervento è tale che poi a lungo termine io torno a mangiare non esattamente come prima, in genere più di prima. Sì. Michele, buongiorno da Vicenza. Buongiorno, si accomodi Michele, le abbiamo fatto giusto un posticino. Complimenti per la trasmissione innanzitutto. Grazie. Niente, allora, io sono l'appoggio morale di una mamma che ha deciso di seguire questo tipo di dieta, tipo che voi catalogata come A, quindi proteica, sì, a base di carne e pesce. Lei ogni 2 giorni appunto chiama il dottore e il dottore le rilascia la dieta che deve fare per i 2 giorni seguenti. La mia domanda è, siccome a seguito appunto di questa dieta a base di proteine, quindi carne e pesce, l'eliminazione dei sali, del pepe, dell'olio, l'olio normale dal supermercato, col susseguirsi dei giorni appunto ha un problema di reni, nel senso che sento un dolore forte alla schiena e penso sia a causa appunto dei reni che non so se sono il sale, se sono la mancanza di questi cibi, che comunque ha sempre continuato a condire il cibo, che le porta questi dolori. Lei usa dei diuretici, diciamo, per aiutare un attimino a eliminare questo dolore e quindi al funzionamento migliore dei reni. Però volevo capire se è un discorso in base alla dieta, perché dimagrire, diciamo, 8-10 kg in un mese non è troppo affrettato? Grazie Michele, bella domandona, dottor Ongaro. Beh, allora, la storia di Michele ovviamente va un po' messa in un contesto, cioè se la signora è seguita da un medico, immagino che il medico sappia quello che sta facendo e quindi abbia sotto controllo la situazione. Detto questo, è un esempio, senza entrare nel merito specifico del caso clinico, di un approccio un po' estremo, cioè 10 kg in un mese sono oggettivamente un po' tanti, e se si ottiene attraverso una disregolazione metabolica che ti porta a perdere peso, però ti crea dei contraccolpi da qualche altra parte, io non la condivido in particolare. Cioè, ricordiamo sempre agli ascoltatori che perdere peso ha una componente estetica e psicologica molto importante, però deve avvenire a favore della salute e non a discapito della salute. Io non posso perdere peso per rischiare di ammalarmi, io devo perdere peso perché voglio stare meglio, essere più sano, anche più bello, più in linea, ma soprattutto più sano. Quindi attenzione a tutti gli approcci che fanno perdere troppi chili rapidamente. Vai sulla bilancia e la guardi, allora gli dai il calcetto, sapete quelle bilance, che col calcetto c'è la lancetta che va poco prima dello zero, gli freghi mezzo chilo da solo, così comunque ti tagli le unghie. Ognuno ti dice una dieta, guarda, sai che devi fare? Ti giuro, Fiore, se tu fai la dieta del minestrone è fantastica, mangia carne bianca, se mangi carne bianca dimagrisci, e pollo, e tacchino, e pollo, e tacchino, e tacchino, e pollo, e pollo, tacchino, tacchino, pollo, vai in bagno, fai l'uovo come meno, perché dopo tutto sto pollo e tacchino, basta. Io ho capito, poi gli amici, e io ve lo dico in telecamera, amici, quando io inizio una dieta e la sto facendo da 20 giorni, voi mi vedete, mi guardate e mi dite, Fiore, sei un po' ingrassato, sono coltellate. Oh, quando dimagrisci, che finalmente uno poco dimagrisce, ti guardano e ti dicono, stavi meglio prima, sai, sembri malato. È vero, non basta dimagrire, non basta veder scendere l'ago della bilancia, ma dobbiamo in qualche modo avere anche il placet, il riconoscimento da parte degli altri, che ci regalano un complimento. Dottoressa Tatiana Torchi, buongiorno. Buongiorno a voi, buongiorno a Nicoletta. Psicoterapeuta cognitiva comportamentale del Dipartimento Neuroscienze Cliniche della Casa di Cura Villa San Benedetto Menni in provincia di Como. Dottoressa Torti, il complimento più gradito a noi donne e che ci facciamo tra donne è: come sei bella, sei dimagrita, come ti vedo bene, hai perso peso. È così? Sì, è proprio così. Possiamo infatti tranquillamente dire che tante volte il linguaggio comune ancora oggi fa valere l'equazione essere magre significa essere belle, no? In realtà, al di là del messaggio culturale del gusto personale, è utile tenere a mente che il nostro corpo è la nostra prima carta d'identità, quindi rappresenta in qualche modo il confine tra noi e gli altri. Mi viene da dire quindi che è un po' naturale osservarne i cambiamenti, notarli, a volte anche sottolinearli. Però, come dicevamo appunto, come Fiorello ci ricordava, in questo caso entrano in scena i complimenti che devono essere usati in maniera delicata. Se noi immaginiamo infatti, Nicoletta, che la dieta può essere paragonata a un allenamento del corpo che si impegna nel raggiungimento di un risultato, come diceva il professore, anche a lungo termine, allora ci viene facile immaginare che i complimenti risultino uno sprone, cioè un incitamento, certo, nel proseguire verso quel risultato. Allora, in questo senso, chi fa un complimento potrebbe immaginare di comportarsi come un tifoso che punta l'attenzione sugli aspetti positivi di ciò che vede, e quindi è sconsigliabile dire frasi del tipo ti vedo sciupato, ti vedo scavato, in realtà queste non incitano. Ti vedo stanco, esatto. Piuttosto usare delle frasi del tipo come sei in forma, ti vedo bene, che stimolano, no? Sì. Che stimolano a impegnarsi a lungo tempo anche per migliorare uno stile di vita, quindi risultare una persona più sana. In questo caso quindi i complimenti vanno usati con parsimonia, ovviamente poi se si conosce la persona meglio ancora, perché riusciamo poi a inquadrare, no? La storia personale e a capire in che momento della storia personale si colloca la dieta. E anche nel momento della dieta, esatto, perché ci sono delle fasi, ne abbiamo parlato tante volte con la dottoressa Reverso e il dottor Ongaro, in cui nonostante i sacrifici il peso non scende più. Esatto. E quindi abbiamo bisogno di un riconoscimento dagli altri, ma noi siamo sempre gli altri per le persone che ci sono intorno. Quindi impariamo a modulare i comportamenti e anche i complimenti, ma anche a non farci un cruccio del complimento. Assolutamente, se noi teniamo a mente il nostro obiettivo a lungo termine, è chiaro che possiamo ricevere diverse tipologie di complimenti. Questo non ci deve ovviamente spostare da quello che è proprio il nostro obiettivo. Quindi teniamo a mente proprio il concetto dell'allenamento costante. È chiaro che questo può portare fatica. Se pensiamo a un atleta, questo non è sempre e perfettamente rilassato, anzi certe volte no, è stanco, si vede visibilmente stanco, però poi in realtà tutto questo serve per arrivare al risultato a lungo termine. Allora, come la saluto, dottoressa Torti? Come la trovo bene? Gentile. Grazie. A distanza, ricambio. E di complimenti e della relazione che c'è tra complimenti e benessere si parla nella sezione Beauty e Benessere, si scrive anzi nella sezione Beauty e Benessere di Moda 24, il settimanale del Sole 24 Ore che esce proprio domani e di cui consiglio la lettura. Essere e benessere. Non puoi mangiare sempre a Catalogna, è una dieta costituita da un elemento solo, non mi puoi far credere che questo sia sufficiente. Volete dimagrire? State cercando di dimagrire e di buttare giù qualche chiletto? Che strada state percorrendo? Abbiamo dato tre ipotesi. ABC, vi buttate sulle proteine, riducete all'osso i grassi, preferite puntare su pasta e verdura con una sorta di rielaborazione della dieta mediterranea. 800 24 00 24, o siete per scelte più estreme e quali? Miriam, buongiorno da Bari e benvenuta. Buongiorno dottoressa Carbone. Guardi, io sono una donna di 60 anni che ultimamente ha messo su la pancetta, così i fianchi 4-5 kg, difficilissimi per me da smaltire. Ho sentito dire che con la farina d'avena potrei essere aiutata, come dire, a spegnere i morsi della fame tra un pasto e l'altro, così. E la domanda era se questa cosa è vera o casomai se c'è qualcos'altro che potrebbe aiutarmi. Grazie. Grazie, dottor Ongaro, e poi chiediamo aiuto anche alla dottoressa Reverso. Dottore. Ma allora, la farina d'avena in quanto tale non lo so, francamente. Mi sono curioso di sentire anche cosa dice Paola con la sua approccio anche più pratico, però direi che come spezza fame sono più utili per esempio la frutta, sono più utili le noci, sono più utili queste introduzioni di alimenti secondo me più completi rispetto a per esempio la farina d'avena in quanto tale, anche perché non saprei bene come uno la può utilizzare, almeno che non intenda farina tipo crusca o cose di questo genere. Ecco. E forse una distribuzione, come suggerisce. Sì, e poi a Miriam, la signora, ricordiamo, faccia attività fisica, signora, perché quei 4-5 kg non sono molti e si riesce a buttarli giù se ci si impegna un po' di più anche su quel versante. Ha qualcosa di interessante, dottoressa Reverso, per noi la farina d'avena? Ma la farina d'avena può essere utilizzata o miscelata alla farina di frumento che siamo abituati tutti a usare, usiamo la tipo 00, sì, per preparare per esempio delle crepe. Sì. E l'abbiamo mi sembra anche inserite nei menu. Ma non ha dei vantaggi differenti rispetto alle altre farine? Ma sì, è un po' più ricca di fibre sia solubili che insolubili, è questa buona combinazione di fibre solubili e insolubili, in effetti sì, può dare aumentare un pochino il senso di sazietà proprio per la presenza di entrambe queste fibre, però possiamo banalmente anche per secondo me è più utile il consiglio che ha dato Filippo, che è quello magari di fare una macedonia di frutta e aggiungere magari uno o due cucchiaini di crusca d'avena, esatto, che a differenza di quella del frumento non irrita la mucosa intestinale, può aiutarci a raggiungere un senso di sazietà e soprattutto a bilanciare l'assorbimento degli zuccheri della frutta. Toglie la più grossa, come si dice, dottoressa Reverso. Sì, Antonio, sì. Buongiorno dalla provincia di Varese. Buongiorno, sì, buongiorno. Antonio, eccoci. Buongiorno. Volevo raccontare la mia storia perché per scommessa ho fatto una scommessa appunto con un mio parente che dovevamo perdere dei chili con diversi step da raggiungere, sì, diversi gradini di peso. Siamo partiti da 102-103 chili, sì, e adesso sono 87 e mezzo. Ah, devo arrivare e l'altro, e il cugino? Uguale. Cugini. Praticamente nessuno dei due ha perso la scommessa fino adesso. Mm. So che devo arrivare a 85 entro fine luglio. Mm. Quindi lei vuole... 2,5 kg mi mancano. Lei vuole vincere, Antonio, lei vuole vincere, vuole battere suo cugino. Esatto. Speriamo che però suo cugino non ci stia ascoltando, perché non vale. No, non è un problema, non è un problema. Il problema è che questi 2,5 kg faccio fatica. Certo. Dire che io non ho eliminato praticamente niente, mangio molto meno di prima. Mm. Come quantità? Sì. Come quantità, perché prima mangiavo per 3 persone, adesso mangio per mezza, insomma. Mm. Quindi sono andato giù tutti questi chili. Senta, chiediamo al dottor Ongaro, perché è un problema che sta tornando anche molto nei messaggi. Gli ultimi chili, quelli che ci fanno arrivare al nostro peso forma, sono quelli più duri da buttare giù. A un certo punto tutto si ferma. Dottor Ongaro, diamo una mano ad Antonio e diamo soprattutto una mano anche alle persone che magari hanno seguito una dieta, magari sono riuscite quasi a raggiungere il risultato, adesso c'è la prova costume. Per evitare di mandare un po' tutto all'aria, o ricominciando a mangiare in modo magari non equilibrato, oppure buttandosi sulle versioni estreme. Ma allora, che dire, Antonio ha fatto un po' l'approccio classico, cioè ha ridotto le porzioni, quindi ha fatto un approccio di tipo ipocalorico senza però modificare più di tanto il contenuto della sua dieta. Sì. Io avrei scelto una strategia differente, avrei corretto gli eventuali errori e lavorato più sulla qualità dell'alimentazione piuttosto che sul contenuto e sulla quantità. Credo che forse potrebbe, per perdere questi ultimi 2,5 kg, fare proprio questo, cioè togliersi da questo meccanismo che evidentemente funziona sempre meno perché il metabolismo si adatta alla riduzione calorica, e provare a seguire alcune delle indicazioni che abbiamo dato anche sul sito di Mangia con me, sul portale di Radio 24, in modo tale da dare quella spinta in più al metabolismo, che è quello che in questo momento gli manca. Lui deve bruciare un po' di più e a forza di restringere le porzioni il metabolismo si è evidentemente un po' bloccato. E c'è una categoria di grassi che attiva il metabolismo. Di che grassi stiamo parlando? Ne abbiamo parlato tante volte a Mangia con me. E dove si trovano? 800 24 00 24. Ne parliamo insieme. Per il primo ascoltatore che ci invierà, ci racconterà, ci darà la risposta esatta, ho pensato a un libro molto interessante, che a me è piaciuto molto, 12 mesi nell'orto, progettare e coltivare verdure e legumi. Tra l'altro dedicarsi al giardinaggio è ormai considerato anche da numerose ricerche un buon modo per calmare, tenere un Bello. Pochino più a base, vero, lo stress. Quindi noi coltiviamo, mangiamo cose buone, voi rispondete a questa domanda che è molto semplice: ci sono dei grassi, noi spesso ce li abbiamo, no? Con i grassi cerchiamo di ridurli, che invece aiutano il nostro metabolismo. 800 24 00 24. Ma oggi che vogliamo in qualche modo raccogliere tutti dei suggerimenti per magari dimagrire un po' e dimagrire nel modo giusto, e vogliamo sentire anche le vostre esperienze di diete estreme, vogliamo anche dare consigli a chi sta a dieta, fa uno strappo, vuoi perché va a farsi un weekend con il fidanzato, o perché è invitato a cena, o perché magari ha un improvviso senso di fame, e il giorno dopo che cosa si fa? C'è chi salta al pasto, c'è chi beve solo liquidi, chi mangia il minestrone, chi fa finta di niente. Voi che fate? C'è però una soluzione, perché gli strappi a Mangia con me sono permessi. Essere e benessere. Eccoci qua, abbiamo Maria Grazia che ci chiama da Bergamo. Buongiorno Maria Grazia, benvenuta. Buongiorno. È a dieta, non è a dieta? Che vuole fare? No, io a dieta, io a furia di ascoltarvi e a furia di leggere, di imparare, me la sono un po' costruita. Brava. Ma volevo sapere se sto andando sulla strada giusta. Io faccio la mia colazione con 150 grammi di latte parzialmente scremato e dei semi di lino. I semi di lino della dottoressa Reverso. Io ascoltandovi, poi prendo magari un 40-20 grammi di pane o 2-3 biscotti, cambio magari, sì, se voglio. poi faccio il mio frutta la mattina e me la sono costruita col pranzo facendo. A volte faccio dei carboidrati, a volte faccio un'insalata, a volte faccio una macedonia, pomeriggio metto sempre il mio frutto, lo snack, la sera carne o pesce senza carboidrati. Io sto benissimo. Io sto benissimo, bella. Però io chiedo, stamattina mi sono mangiata, strappo la regola perché un'amica mi ha portato dei confetti, io ho mangiato 3 confetti alle mandorle. Un piccolo, cioè, mi concedo queste cose, capisco, però da quando effettivamente non arricchisco con carboidrati, appesantisco molto, aggiungo la frutta, aggiungo un po' doso l'olio in modo regolare. Io non so se saranno questi benedetti semi di lino che consiglio a tutti. Dottoressa Reverso, ma noi questi semi di lino ci hanno un po' cambiato la vita? Come mai? Ma io questo successone? Io penso che sia dovuto a 2 fattori essenziali. Uno, che evidentemente l'input piace, ci stimolano un po' la nostra voglia di occuparci di noi, e a parte questo psicologico sicuramente aiutano, perché migliorano quella che è la peristalsi intestinale, insomma ci aiutano nelle funzioni intestinali. Questo è importante perché abbiamo bisogno di avere una flora microbica attiva, perché è importante per il nostro metabolismo anche, e abbiamo bisogno di avere delle funzioni intestinali corrette. Certo. Oltre a questo sono anche un buono stimolo, perché la signora, a parte i semi di lino, mi sembra che stia raggiungendo una sua consapevolezza alimentare, una consapevolezza anche del suo corpo, dei suoi bisogni. Anche solo capire che 3 confetti sono uno strappo alla regola, poi si gestisce da sola, mi sembra che si gestisca anche molto bene. Assolutamente, è in una fase un po' di mettiti alla prova, per questo noi invitiamo i nostri ascoltatori a mandarci la loro giornata tipo, la dottoressa Reverso e il dottor Ongaro, potete mandarla naturalmente sulla pagina di Mangia con me che trovate sul sito di Radio 24, e i nostri esperti vi daranno un occhio e vedranno se il vostro menù è corretto sulla filosofia di Mangia con me o quali modifiche necessita. Scriveteci, mi raccomando, perché poi il dottor Ongaro e la dottoressa Reverso ci segnaleranno chi di voi ha avuto il menù più equilibrato, e a lui faremo ricevere a casa un libro all'ascoltatore della libreria di Essere e Benessere. Dottoressa Reverso, a proposito di strappi, ci sono delle avvertenze, dei modi per ricucire uno strappo senza scegliere delle soluzioni estreme come quelle di saltare i pasti, ad esempio? Sì, per esempio se a pranzo si è mangiato, non so, un'abbondante porzione di pasta, perché noi comunque in italiani siamo golosi di pasta, e come ha detto giustamente la signora poco fa, poi lei a cena per esempio evita di mangiare di nuovo i carboidrati. Ecco, per esempio iniziare una cena con delle verdure crude, che in estate fa anche piacere, e ci aiuta poi a mangiare un pochino di meno, poi quindi possiamo usare del pesce, delle carni bianche, scegliendo come sempre, come suggerisce anche il dottor Ongaro, alimenti di qualità, e sentiamo anche proprio meno il bisogno del carboidrato, perché abbiamo già masticato un pochino anche le fibre delle verdure, che anche le verdure contengono un po' di carboidrati, per esempio pensiamo alle carote. Certo. Ma adesso in estate abbiamo anche dei fagiolini. Quindi dopo uno strappo, dottoressa Reverso, non vale saltare il pasto, non aiuta, ma magari ci aiutano degli alimenti che risvegliano un po' il nostro metabolismo. Soprattutto ci dia una strategia per evitare che le calorie si trasformino subito in grasso, e noi invece vogliamo trasformarli in energia, già che abbiamo mangiato. Per esempio potremmo associare iodio, selenio e magnesio per stimolare sia il lavoro della tiroide sia l'uso degli alimenti come fonte energetica e non come accumulo di tessuto adiposo. Certo. Questo cosa significa? Beh, quando pensiamo allo iodio, tutti i pesci, crostacei, ma anche le crostacei, gamberetti, sì, aragoste, sgombri, insomma, sono più costosi. Meglio lo sgombro. Però anche acciughe possiamo utilizzare, perché anche le acciughe sono una buona fonte di iodio e sono anche economiche, sono del nostro mar Mediterraneo. Poi invece se iodio e selenio, come abbiamo parlato la settimana scorsa, come è stato consigliato proprio da te Nicoletta nella tua trasmissione, di abbinarli per far funzionare meglio la tiroide, il selenio lo troviamo troviamo nei cereali integrali, nel germe di grano, nel lievito di birra. E, ecco perché il menù di oggi proposto, che poi insomma si troverà sul sito di Mangia con me, inizia proprio già dalla mattina con l'uso di questi cereali integrali in fiocchi. Allora, un menù molto gustoso, ricco, che possiamo anche suggerire a chi sta seguendo magari una dieta, ha fatto uno strappo e vuole un po' resettare, soprattutto trasformare quello che ha mangiato in eccesso in energia e non in ciccia. Io ve lo consiglio, naturalmente potete andare a leggerlo sul sito di Radio 24 nella pagina di Mangia con me. Beh, potete anche come sempre compilare il questionario, fatelo dottor Ongaro, perché questo questionario non solo aiuta a prendere consapevolezza del vostro stile del nostro stile alimentare, ma aiuta anche, dottor Ongaro? Ma il questionario è il primo passo per un cambiamento, Nicoletta. Certo. Cioè io per esempio uso un questionario con i miei pazienti molto ampio, che loro mi rinviano prima di venire da me, e è un modo per la persona di mettersi già in gioco, di cominciare a prendere in considerazione alcuni fattori, e il primo passo per stimolare la voglia di cambiare, quindi è molto importante. Chissà se è cambiata nel frattempo Erika, la nostra Erika, ve la ricordate, una partecipante di Mangia con me, potete naturalmente seguirla sulla pagina del nostro sito. Erika, come sta il vichingo? Il vichingo mi sa che in questo periodo non troppo bene. Senti, tutto è iniziato con un questionario, hai compilato il questionario, sei diventata una degli 8 partecipanti di Mangia con me, ricette adeguate, come ti senti? So che sei andata in Francia a proposito di strappi. E lì infatti la nota dolente, perché sono andata in Francia, ho fatto 10 giorni e mi ha stravolto un po' la dieta, anche tutto, ho cercato di rispettare i parametri, quindi cercando di rispettare i consigli che mi erano stati dati, però ovviamente quando si è lì uno mangia anche il cibo locale. Assolutamente. Adesso e adesso cosa stai facendo? Allora, come state dicendo alla fine. Quindi gli strappi sono assolutamente fisiologici, naturali. Erika è andata in Francia, ha seguito i consigli del dottoressa Reversa e del dottor Ongaro, e poi naturalmente in Francia col vichingo si è lasciato un po' andare, ma sul sito trova tutte le ricette, tutte le indicazioni per ritornare nella filosofia di Mangia con me. Grazie Erika, salutaci il vichingo. Grazie a voi. E intanto noi ti seguiamo. Dorina, buongiorno da Monza, in chiusurissima. Buongiorno, volevo dare la risposta che i grassi buoni sono gli omega 3 che si trovano nel pesce e anche nei famosi semi di lino che prendo tutte le mattine da quando vi ascolto. Brava Dorina, bravissima, 12 mesi nell'orto. Grazie. E questo applauso va anche a voi che ci seguite, ci scrivete, ci sostenete, alla nostra dottoressa Reversa e al dottor Ongaro. Come sempre io vi saluto, ringrazio i miei esperti, vi do appuntamento a domani e mi raccomando, mangia con me. Essere e benessere.